Gli ascoltatori di una certa età, quelli che diciamo hanno avuto l'avventura di essere giovani nei favolosi anni 60, ricorderanno senz'altro quella canzone dei Rox, uno dei gruppi musicali attivi allora, in cui gli interpreti, dopo aver osservato che la notte cadeva su di loro, che la pioggia cadeva su di loro, che la gente non sorrideva più e che un mondo ormai vecchio gli stava crollando inesorabilmente addosso, si chiedevano che colpa ne avessero loro. Parlavano naturalmente in nome del loro referente ideologico, i giovani ribelli, i contestatori, i capelloni, si diceva allora, figuratevi, per respingere, non senza buone ragioni, ogni tentativo da attribuir loro la responsabilità del disagio culturale e sociale che anche in quei tempi felici si cominciava a percepire. In fondo le responsabilità di ogni forma di disagio sociale vanno attribuite in primo luogo a chi è responsabile della gestione della società in cui quel disagio si manifesta. I giovani, ribelli o no, sono gli ultimi arrivati, e gli ultimi arrivati per forza di cose della gestione concreta delle pubbliche faccende sono sempre lontani, e di colpe per il loro cattivo funzionamento ne hanno di conseguenza pochine. Ora, non saprei dirvi se questo aureo principio sia entrato oggi a far parte in via definitiva del nostro patrimonio culturale, ma nessuno potrà negare che quella canzone negli anni successivi abbia avuto successo. Il suo ritornello è stato ripetuto tante di quelle volte da giustificare l'eventuale proposta di chi volesse elevare Che colpa abbiamo noi al rango di inno nazionale della prima e della seconda repubblica prese insieme. Esempi non ne mancano, eh? Esempi non ne mancano in tutti questi 30 anni, ma stiamo pure ai più recenti. La settimana testé trascorsa, come ricorderete, si è aperta con l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Io personalmente non ho mai capito in che cosa un anno giudiziario differisca da un anno normale e che bisogno abbia di essere inaugurato, che significa nel concreto costringere un certo numero di degne persone, compresi i responsabili dell'ordine pubblico, ad abbandonare le loro incombenze per andare ad ascoltare gli sproloqui di qualche alto magistrato, con gioia, suppongo, degli operatori della delinquenza, liberi per quel giorno d'agire senza freni, essendo tutti funzionari addetti alla difesa dell'ordine pubblico impegnati in palazzo di giustizia a celebrare se stessi. E neanche sono mai riuscito a capire perché, se l'anno giudiziario proprio debba essere inaugurato con un discorso, il compito di farlo debba essere affidato al procuratore generale, cioè al massimo rappresentante dell'accusa, e non a qualche esponente del ruolo giudicante, come se il compito principale dell'apparato giudiziario nel suo complesso fosse quello di accusare e non quello di giudicare gli accusati. Ma non è questo naturalmente il punto su cui volevo richiamare la vostra attenzione. Il punto è che tutti i procuratori intervenuti, da quello presso la Corte di Cassazione in giù, si sono affannati soprattutto a spiegare che del crescere del livello di criminalità, del venir meno della pubblica sicurezza, dell'imbarbarimento delle condizioni di vita metropolitane di cui tanto in questi giorni si parla, loro, i magistrati, colpa non ne hanno. Fanno del loro meglio, certo, ma i loro sforzi sono puntualmente frustrati da chi si ostina a proporre legislazioni assolutamente lassiste, che profondono garanzie a piene mani per i malfattori e ostacolano le indagini e le possibilità di intervento dei bravi giudici. E non è finita. Mentre a Milano, sull'onda dei noti fatti di cronaca, o sull'onda della nota cronaca, perché spesso i fatti non c'entravano, sull'onda dei noti fatti di cronaca crescevano giorno dopo giorno le polemiche sul livello della criminalità, che statisticamente si sa piuttosto basso a Milano, ma chiunque manipolando un po' i numeri per i suoi tristi fini lo può far apparire elevato quanto gli pare. Mentre le polemiche proseguivano, le attribuzioni di colpa agli altri continuavano, che era un piacere. Un altro esponente della procura milanese ha denunciato con vigore l'inettitudine della polizia, i cui funzionari, diversamente da un tempo, non conoscono più la realtà sociale in cui si muovono. Un suo collega ha giustificato i suoi pari con la scarsità nel campo della criminalità da strada dei pentiti, in grado di indirizzare adeguatamente le indagini, perché si sa, i giudici senza l'imboccata dei delatori non possono fare niente. I poliziotti e i carabinieri hanno obiettato che con i pochi mezzi e la scarsità di uomini di cui dispongono non possono fare più che tanto. I politici hanno fatto garbatamente capire che le leggi vanno benissimo e di mezzi ce ne sono anche troppi, ma se gli inquirenti perdono il loro tempo a indagare sulle persone da bene, per esempio sui politici, i malfattori non possono che giovarsene. Il pavone Albertini ha spiegato e rispiegato che se avesse lui tutti i poteri il problema si risolverebbe in un Fiat, ma così come stanno le cose, da semplice sindaco non ci può fare proprio niente, eccetera. Nel complesso è uno spettacolo deprimente. Deprimente anche perché lo scaricabarile non è un giochetto innocuo con cui si possa andare avanti ad infinito. A un certo punto, ahimè, qualche soggetto debole su cui far ricadere le responsabilità senza che lui sia in grado di ritorcere su qualcun altro si finisce sempre con il trovarlo, allora sì che sono cavoli amari. È da una pratica del genere che sono nati tutti i razzismi, tutte le cacce alle streghe, tutte le nefandezze che hanno funestato il nostro secolo. E in effetti i bravi milanesi hanno dimostrato la massima disponibilità ad ascoltare gli impliciti suggerimenti della loro classe dirigente. Non è stato un caso se la responsabilità, la colpa, di quanto è successo è stata delegata a unanimità su qualcun altro, se invece di interrogarsi sulla logica con cui in questi anni si è giunti a vivere in una società urbana così insicura, in un equilibrio sociale e culturale così fragile, si è preferito scaricare tutto sugli altri per eccellenza e condannare gli altri da sempre il modo più sicuro per assolvere se stessi. E così per quanto scarsi o nulli possano essere i rapporti tra i fatti di sangue di questi giorni e il mondo degli immigrati, e per quanto tutta la nostra storia recente ci insegni come il nostro paese non abbia nessun bisogno di importare criminalità organizzata dal di fuori, perché quanto a mafie ce la caviamo benissimo in proprio, e l'opinione pubblica così autorevolmente guidata ha deciso che la colpa è tutta degli stranieri che vivono in mezzo a noi. Il sindaco, che è un imprenditore, ha già trovato la ricetta infallibile, proponendo a qualcun altro, perché si sa che lui non può farci nulla, l'obiettivo tipicamente manageriale di un tot di espulsioni al giorno, 100, 200, così. I cittadini sono d'accordissimo. La stampa, secondo l'uso, collabora. Se deve riferire della rissa per motivi di interesse tra due milanesi un po' bevuti e assolutamente non immigrati che si sono presi a coltellate, per fortuna senza esiti gravi, in un bar di via Losmini, a due passi da casa mia, parlerà di accoltellamento a Chinatown e sottolineerà, non potendo sottolineare nient'altro, che il proprietario del locale in cui è avvenuto l'episodio, guarda un po', è cinese e uno dei testimoni presenti è addirittura albanese. Che i rapinatori che in altri luoghi hanno sparato e ucciso fossero ostensibilmente connazionali nostri non è un'ovvietà da dare per scontata, ma una precisazione da ribadire, vergognandosene, spero, in sede di cronaca. Tutto questo suonerà un po' ovvio, ma è proprio per questa ovvietà che lo rende più grave di quanto appaia a prima vista. Che quando a cercare i capi espiatori, ad attribuire responsabilità, ad accusare qualcun altro di non fare quello che si deve fare sono le forze di opposizione, in fondo non c'è niente di male. Le opposizioni fanno il loro mestiere, se per esercitarlo sentono bisogno di fare appello ai sentimenti più bassi del loro elettorato, evidentemente non ne possono fare a meno, non si possono raddrizzare le gambe ai cani, con rispetto parlando, e ciascuno gioca le carte che ha. Ma il guaio è che chi all'opposizione non è, chi ha concrete responsabilità di governo ed evidentemente desidera spogliarsene, non ha fatto niente di diverso. I rappresentanti dell'esecutivo da D'Alema in poi hanno ribattuto che certe cose non si dicono, ma nel concreto hanno dato un bel giro di vite adottando buona parte dei provvedimenti repressivi che gli sono stati chiesti. Poi naturalmente si sono sentiti dire che non basta, ma così imparano. Di razzisti ce ne sono in giro tanti, anche se noi italiani siamo sempre stati piuttosto proclivi ad assolverci da qualsiasi accusa in merito, ma forse il problema non è quello del razzismo in senso stretto, il problema è quello dell'arroganza, dell'incapacità di ammettere che il mondo in cui viviamo è sempre quello che ci siamo costruiti noi. Gli altri, quelli che vengono da fuori, non saranno tutti dei santi, figuriamoci, avranno le loro magagne e i loro problemi, ovviamente, ma nel complesso che colpa volete che abbiano? A me, vi confesso, certe volte quando vi vedo in giro che mendicano le briciole della nostra ricchezza, viene persino voglia di chiedergli scusa. La notte cade su di noi. pioggia cade su di noi. La gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi?